ed è arrivata una grande artista che è seduta qui negli studi di Radio Città Fujiko. Benvenuta, ciao. Ciao. Eccola, lei è Laura Agnusdei. Come stai? Bene, bene, aspetta, mi sto abituando al volume. Sì, tutto ok? Ciao, un po' troppo importante. Io sono felicissima di averti qui, posso dire, anticipiamo. Che siamo molto felici, sì, di averti come nostra ospite, ma ti volevo raccontare super brevemente. Ok, sentiamo. Sei innanzitutto una sassofonista e musicista elettronica bolognese, ti sei diplomata al Conservatorio Martini qui di Bologna e successivamente hai conseguito un master in musica elettronica in Olanda. Il tuo progetto solista esplora le possibilità della composizione elettroacustica creando paesaggi sonori all'interno dei quali il sax rimane la principale voce narrante, sospesa tra l'uso della melodia e la ricerca timbrica, residui di forme e canzoni e squarci improvvisati. La sua musica amalgama diverse fonti sonore e una ricerca di un'emotività che assumono toni e colori differenti da una traccia all'altra. Confermi, Laura? Confermi. L'accendiamo. Accendiamo? Ecco, ottimo, meno male, altrimenti avremmo fatto veramente una pessima figura, Luca. Esatto, ma tra l'altro è stato molto bello perché in questi minuti, mentre avevamo gli stacchi tra una diretta e l'altra, di questa nostra diretta, abbiamo sentito un po' le prove prima di suonarci qui live. Quindi abbiamo già sentito il sax, abbiamo visto tutte le cose collegate ed è molto bello. È bello quando suonano qui dal vivo e li abbiamo a pochissimi centimetri da noi. Sì, perché poi io lo devo ammettere, in realtà io sfrutto la radio per far suonare i musicisti che mi piacciono e poi dico sì, siamo in radio, ma in realtà lo faccio solo per, certo, per me. Ovviamente. Però vi ricordiamo che è anche partita la nostra diretta Facebook, quindi collegatevi così vedete tutto quello che sta succedendo qui. I nostri faccioni, ma fra poco qualcosa di meglio dei nostri. Assolutamente. Faccioni, ecco, diciamolo. Ma andiamo. Vai, alle partiamo domande. Con l'intervista. L'intervista, allora, intervistata. Il tuo disco è uscito poche settimane fa, si chiama Lauri Silva. Mm-hmm. Tra l'altro copertina bellissima, ma ne parliamo dopo. Ho letto la storia dietro a questo nome e ne sono rimasta particolarmente affascinata. Ti va di raccontarci un po' l'idea? Sì, allora, Lauri Silva è un nome scientifico che sta ad indicare un tipo di ecosistema, di habitat, di foreste subtropicali. Però non è da prendere proprio alla lettera, nel senso che semplicemente dopo che avevo terminato la composizione dell'album ho individuato vari riferimenti tra le varie tracce, ho cercato, insomma, dovevo comunque pensare a un titolo eccetera eccetera, e pensavo, cioè questo nome, che in realtà era il nome di una traccia che è stata la prima traccia che ho composto, ho pensato che invece si adattasse bene a tutto l'album, proprio perché in qualche modo tutte le tracce disegnano una specie di, appunto, ecosistema musicale. Particolarmente caratterizzato da quelli che io chiamo i bubble sounds, cioè quindi suoni di rigogli, bolle, qualcosa che dà l'idea di una materia, diciamo, organica in continuo movimento e evoluzione, e essendo che appunto Lauri Silva contiene comunque la radice del mio nome, che è da Laurus. Era perfetto, no? Esatto, cioè comunque era un nome che indicava comunque la composizione di un piccolo ecosistema musicale mio personale. E abbiamo parlato anche della copertina, no? Mm-hmm. Io so che l'hai disegnata tu la copertina, sì. Non sbaglio. È bellissima. Grazie. È una copertina anche questa un po' silvestre, un po' di ecosistema, vero? Mi immagino, almeno questo quello che ci ho visto io. Poi sì, anche qua non è stato inizialmente programmato, perché sono un po' di anni che disegno, ma per hobby ovviamente, cioè così, per rilassarmi principalmente, e ho pensato che questo album comunque aveva un qualche collegamento con i tipi di disegni che mi capita di fare, che sono spesso ispirati appunto a forme vegetali, ma non solo, cioè cellule, animali marini, è un po' come con la musica, in realtà sono delle improvvisazioni, nel senso che magari io inizio da un piccolo elemento che mi piace, che mi ispira una forma, oppure una figura, ho appena visto una figura di un fungo strano, cose del genere, e poi mi metto a disegnare, E allora ho pensato, vabbè, facciamo la copertina dell'album con uno dei miei disegni. Giustamente. Beh, è una bellissima idea, anche perché appunto mettere insieme anche il disegno e la musica, e soprattutto se rappresenta quello che sei e quello che è la tua musica, è secondo me molto bello, rappresenta molto bene anche la tua musica. Tra l'altro tu vivi qua a Bologna, ma hai studiato anche in Olanda un master in musica elettronica, quindi ti sposti tanto in giro per il mondo, sia per il tuo progetto solista, ma anche come sassofonista. Lo abbiamo chiesto anche a Ico Manece, lo chiediamo anche a te: quale rapporto hai con l'Italia e invece che rapporto hai con l'estero, quindi sia magari a livello musicale, ma anche per le tue influenze, anche a livello sociale e di vita, insomma. Mm-hmm. Allora, io ho vissuto in Olanda 3 anni a L'Aia, The Hague o The Hague, come volete chiamarla, principalmente per studio, e prima ho sempre vissuto a Bologna e sono tornata da luglio, quindi da relativamente da poco. Da poco. Quindi questa domanda mi tocca molto, perché sono in questa fase in cui non so se restare o andarmene. Siamo un po' tutti in questa fase. Esatto, anche noi siamo in questa fase. Che è un po', appunto, un po' un problema generazionale di sicuro. E quindi niente. Allora, che rapporto ho con l'Italia? L'Italia è un grande paese, diceva qualcuno. No, l'Italia di sicuro è casa, cioè, quindi secondo me, come dal punto di vista magari artistico, ha un altro significato fare le cose nel posto in cui sei nato, nel posto che ti ha formato, diciamo, ti senti anche appunto più coinvolto in quello che succede, in quello che puoi fare per migliorare le cose, fondamentalmente. E invece con la mia esperienza all'estero è stata molto positiva, però è stata un po' particolare, perché sono andata a fare qualcosa appunto di specifico in un ambiente molto internazionale. Infatti dico sempre che Den Haag era una specie di aeroporto, perché è una città molto molto così internazionale, ma appunto come può essere un aeroporto, una città di passaggio che apparentemente non ha un'identità sua, ma accoglie molti di quelli che loro chiamano gli expats, per non dire immigrati. Ah. Fondamentalmente. E tu sei tornata? Sì, sono tornata perché di sicuro non volevo vivere lì, e questo mi era chiaro, e quindi ho detto, vai, nel mentre intanto torniamo, e poi comunque suono molto in Italia e così. L'estero, secondo me, lo dico sempre, è superiore solo in una cosa per noi artisti, cioè ha più fondi pubblici. Eh sì, senso. È vero. E beh, che è sicuramente molto importante. E infatti tu dicevi che suoni molto, infatti hai già portato un po' il tuo progetto in giro per l'Italia negli scorsi mesi, e suonerai il prossimo 13 dicembre al teatro del Baraccano. Esatto. Quindi insomma una grandissima cornice, un grande posto, e con una band, giusto? In una versione tutta inedita, ci racconti? Esattamente, l'evento di venerdì è qualcosa di nuovo per me, perché per la prima volta ho riarrangiato il repertorio che di solito propongo da sola, con questo set che potete vedere nella diretta Facebook. Eila. per una band, saranno presenti anche i musicisti che potete sentire sul disco. Quindi Elizabeth Lush, che è una trombettista americana, che però appunto di base adesso in Olanda, che è venuta apposta, e appunto che è la ragazza che suona la tromba sul mio disco, e anche Giacomo Bertocchi, che invece è un ragazzo di Molinella, che anche lui ha fatto delle parti di fiati per il mio disco, e Daniele Fabris all'elettronica, che è un musicista di Bassano, e Edoardo Grisogani dalle Marche. Quindi sarà un'occasione unica per sentire dei brani che non riproporrò in altre formazioni, e per sentire tutto il disco appunto dal vivo. Wow. Quindi 13 dicembre. Esatto, noi ricordiamo il 13 dicembre che suonerai allora insieme a questa band che ci hai appena presentato al teatro del Baraccano, ma io sono curiosissima di sentirla live, quindi se hai voglia di suonarci qualcosa ora qui sui 103.1 noi ti ascoltiamo. Siamo tutto orecchie. Siamo prontissime. Ok, mi preparo. Esatto, okay. Allora noi intanto anche diciamo noi qualcosa. Ci prepariamo. Aspetta che io intanto devo capire un po' come, perché è la prima volta anche per me. Aspetta. Esatto, okay. Facciamo questo piccolo set qui live a Radio Città Fucico, quindi rimanete sintonizzati e sintonizzate, ma comunque, come dice il capo. Esattamente, ma potete continuare a scriverci al 333-180-94-94, soprattutto se avete una domanda o più domande da fare alla nostra protagonista di questa puntata. Esatto, io non vedo l'ora, lo ripeto. Sì, e vi ricordiamo la diretta Facebook, che è in onda in questo momento sui nostri canali social. Eh sì, ciao. Ciao. Ciao a tutti. O dovrei anche metterci su una storia su Facebook, ora controllo, ma sì, Instagram, c'è anche Instagram. Non su Facebook. Vedi che confusione. Le storie su Facebook non si mettono più, siamo troppo giovani. Ma siamo pronte e se Laura è pronta, noi non vediamo l'ora, quindi direttamente a Radio Città Fucico questo piccolo live di Laura a Newsday. Ah. Thank you. Qua io sono rimasta incastrata sì, nei sì, film. Eravamo pronte a riprendere la diretta perché appunto ci siamo accomodate anche noi, cuffie al massimo volume, ci siamo ascoltate questo mini live tutto per noi per Radio Città Fujiko di Laura Agnus Dei. Mi incasino un po' a dire il cognome. Che tra meraviglioso, l'altro è il tuo cognome comunque. Per davvero? Sì, sì, sì. Wow, non è il mio nome d'arte, come mi chiedono spesso. È una grande fortuna, devo dire. Sì, perché è molto particolare, quindi sembrerebbe effettivamente un nome d'arte, invece è un nome di battesimo. Esattamente, non lo sceglierai mai come nome d'arte, se devo no? essere sincera. No, sono un po' anticlericale. Che nome d'arte sceglieresti? Ma non saprei. Non si dice. Ah no, perché metti che fra qualche anno decide proprio, poi avrebbe ci avrebbe regalato l'esclusiva del nome d'arte. Noi poi tireremmo fuori queste interviste e diremmo noi lo sapevamo. E invece non sarà così. No, perché tanto ho un nome vero che sembra un nome d'arte. Perfetto. Quindi non quindi bisogno. Tutto torna. Ma ti possiamo chiedere qual è il tuo brano preferito dell'album? È una domanda molto difficile. Di sicuro... magari ho un brano che mi ha più sorpreso della serie. Oh, l'ho fatto io. l'ultimo, Golden Kites. E okay. Come mai? Ma perché ha un uso del sax diverso dagli altri brani. Ci sono queste due linee di sax che si incrociano e fanno una specie di contrappunto. E in realtà tutte le melodie principali sono assegnate alla tromba. Wow. Okay. Quindi sì. Fra l'altro ti volevo anche chiedere, mi sono accorta che in Shaky Situation, cioè credo che sia l'unico brano in cui c'è anche del parlato, no? Sì. E appunto finisce dicendo Very Shaky Situation, mm-hmm. Se ho capito bene. Sì, sì, hai capito bene. Ma da dove è tratto questo, cioè è qualcosa che hai campionato? Allora, sono due voci, una è la voce di Albert Taylor, sassofonista free jazz, e un'altra è la voce di Cecil Taylor, pianista, anche lui free jazz. Due, diciamo, sì, musicisti che ammiro, e le ho campionato queste voci da delle interviste. Loro, ho fatto questo collage che è molto giocoso, in realtà è un po', diciamo, interviste su come intendono la musica, essere musicisti e cose del genere. Quindi dicono che è una situazione molto shaky. Sì, quello è, diciamo, un gioco di parole, perché quello è l'unico pezzo un po' pop, diciamo, okay. dell'album, e ha tutti questi ritmi un po' rimbalzanti, e quindi è un po' ironico. It's a very shaky situation. It's a very shaky situation, è vero, è vero. Mm-hmm. A me l'album è molto piaciuto. Se non l'avete ascoltato, adesso mi rivolgo ai nostri ascoltatori ascoltatelo assolutamente, ma soprattutto siateci il 13 dicembre al Teatro del Baraccano, che ricordiamo sarà uno show tutto in una versione inedita, e sarà appunto per la prima volta accompagnata da una band. Quindi, come dicevi anche prima, non ci saranno molte altre occasioni di vedere la situazione in questa tosse, colpo di tosse, sì, finisco io di dirlo, non ci saranno molte altre occasioni, probabilmente sarà l'unica per vedere e ascoltare dei brani in versione inedita, nella veste inedita, cioè nella veste dell'album, che poi non è quella che porti tu in giro, mm-hmm. quando suoni chiaramente da sola, come ti abbiamo sentito oggi o come hai fatto in questi ultimi mesi in giro un po' per l'Italia, un po' per il mondo. Esatto, ora o mai più, siateci.